L'Italia vista dallo spazio di Achille Corea e Fabrizio Intonti. E rieccoci qua, ben ritrovati. Questa è Radio 24, io sono Achille Corea. Sesta puntata dell'Italia vista dallo spazio in questo lunedì 6 agosto. Proprio questa mattina alle 7.31 ora italiana il robot Curiosity è atterrato su Marte. Noi facciamo tanti complimenti ai colleghi del programma spaziale americano, ma loro la fanno facile con questa piccola cosetta di mandare un robot su Marte. Noi qui facciamo una cosa ben più impegnativa, cercare ogni giorno di esplorare un aspetto, un dettaglio, una caratteristica degli italiani, dell'Italia, dell'italianità, e scegliere ogni giorno un oggetto, un simbolo da inserire in questa navicella spaziale virtuale che manderemo in orbita il 31 agosto. Dobbiamo arrivare a 24 oggetti. Finora abbiamo raccolto e inserito una teglia di parmigiana di melanzane, un CD con il rumore del motore della vecchia 500, il DVD di Amarcord, Alex Zanardi in persona personalmente e... Posto numero 5, in attesa di assegnazione. Nella puntata di venerdì abbiamo parlato dei difetti grandi e piccoli degli italiani. Voi ne avete enumerati parecchio, ci avete telefonato, ci avete scritto per dirci quali difetti odiate e quali riuscite a tollerare. Alla fine è emerso che il difetto che troviamo più tollerabile, quello nei confronti dei quali siamo indulgenti, il difetto riconducibile a noi italiani, è una certa confusione, un certo disordine, perché lo leghiamo alla creatività. Ci piace pensare che siamo disordinati ma creativi. Allora noi mandiamo questo disordine presuntamente creativo nello spazio, lo simboleggiamo con una parrucca di quelle spettinate, sai, un po' Einstein, un po' Giovanni Allevi, quelle che di solito si legano al genio e alla sregolatezza. Infiliamo anche questa parrucca nella nostra navicella e tutti gli altri difetti, quelli grossi che ci avete detto, il fatto che siamo portati allo scaricabarile, l'individualismo, l'eccessiva furbizia, li lasciamo tutti fuori. Posto numero 5, assegnato. Sventi, veloci, piano, con calma, non va affrettate, eh? Poi non scrivete subito poesie d'amore, che sono le più difficili, aspettate avere almeno un'ottantina d'anni, e scrivetele su un altro argomento, che ne so, su il mare, il vento, un termosifone, un tram in ritardo, ecco, che non esiste una cosa più poetica di un'altra, eh? Avete capito? La poesia non è fuori, è dentro. Cos'è la poesia? Non chiedermelo più, guardati nello specchio, la poesia sei tu. Italiani, popolo di santi, poeti e navigatori, vale ancora questo detto, vale ancora questa definizione? Siamo ancora santi? Siamo ancora navigatori? Beh, forse quando c'è la Coppa America abbastanza, diciamo. E forse siamo più un popolo di commissari tecnici, forse guardando ai risultati delle Olimpiadi siamo un popolo di tiratori scelti, spadaccini e ginnasti. E poeti? Siamo ancora poeti, siamo ancora scrittori, siamo ancora lettori? Questo a guardare i dati sembrerebbe di sì e di no. Pubblichiamo un sacco di libri, ne leggiamo forse un po' di meno, però come facciamo a mandare una navicella nello spazio con i simboli dell'italianità senza mandarci nemmeno un libro? Per cui oggi vi chiedo di scegliere insieme a noi un libro, è una domanda classica, di solito si dice quale libro porteresti su un'isola deserta. Qui è un po' diverso, perché lì scegli il libro della vita, il libro che non ti stancheresti mai di rileggere. Qui vi chiedo uno sforzo in più, diteci un libro che secondo voi rappresenta l'Italia o comunque la dovrebbe rappresentare, anche magari solo un'aspirazione. Diteci perché, ditecelo su Facebook alla nostra pagina che si chiama L'Italia vista dallo spazio, su Twitter usando l'hashtag cancelletto dallo spazio e ovviamente al telefono all'800 24 0024. Noi cerchiamo un libro insieme a voi e insieme ai nostri ospiti e cominciamo con un ospite che di libri si intende parecchio. È con noi Piero Dorfles, buongiorno. Buongiorno. Piero Dorfles, che è un giornalista e un critico, ma è per il grande pubblico il volto che ha affiancato tutti i conduttori del programma Per un pugno di libri e quindi tanti libri e tanti lettori gli sono passati davanti in questi anni. Ebbene sì, soprattutto lettori giovani che sono sempre interessanti. Sì, e che magari a volte spiazzano anche forse, no? Rispetto all'idea che ci siamo fatti di loro e quello che ci raccontano. È vero, le volte le loro scelte sono molto curiose, per alcuni casi sono un po' banali, per dire, piace molto ancora Hesse e molti personaggi contemporanei, però ogni tanto vengono fuori dei classici abbastanza originali e questo conforta. A proposito di scelte, partiamo subito da qui. Qual è la scelta di Piero Dorfles per il libro italiano da lanciare nello spazio come simbolo dell'Italia? Ma la mia non è una scelta, la mia è un'ingiunzione. Guai a chi non ha letto Pinocchio. Questo non perché sia un libro che ha di per sé delle qualità talmente diverse dalle altre da essere una cosa che non si può perdere, ma semplicemente perché è il libro degli italiani. Io credo che contenga dentro di sé qualcosa che va al di là della maggior parte dei libri, anche di altissimo valore letterario, che sono seguiti. Innanzitutto perché è il libro dell'unità. È il libro degli anni in cui l'Italia diventa un'unità territoriale, nazionale e linguistica, e lui ne porta tutte le conseguenze, perché trasforma il linguaggio del toscano nel linguaggio nazionale. È praticamente da lì che tutti riusciamo a imparare una lingua unitaria. In secondo luogo perché racconta l'Italia con tutti i suoi difetti, con tutte le sue manchevolezze, anche le sue piccole bieche furbizie, la diffusione di una certa illegalità di massa, l'incapacità di crescere degli italiani. E infine perché è un libro di grandi archetipi umani. Ci sono dentro quasi tutte le rappresentazioni di come l'uomo, dal bambino fino all'anziano, si presenta di fronte alla società. Proprio parlando di archetipi, è un libro in cui quindi lei trova ancora un'attualità italiana, o rileggendolo c'è qualcosa che forse oggi non c'è più? Sì, c'è qualcosa che non c'è più. La profonda laicità di quel libro e di quello Stato. In tutto Pinocchio non c'è un solo riferimento a fatti trascendenti, a preghiere, a fedi. Sono cose che stanno fuori, perché nella vita di quegli anni, io credo, si era molto radicato nel paese l'idea che la divisione tra Stato e Chiesa dovesse essere una cosa che riguardava soltanto la sensibilità individuale. E Pinocchio da questo punto di vista è perfetto, nel senso che racconta la vita di un burattino, un ragazzino, ma con tutto quello che c'è intorno, la società, la scuola, la polizia, i carabinieri, diciamo c'è praticamente tutto quello che ci vuole, salvo la parte, diciamo così, trascendente. Questo mi porta a chiederle se invece c'è qualcosa che magari intuisco potrebbe essere più attuale, che potremmo lasciare tranquillamente fuori dalla nostra scelta. Se c'è un'ingiunzione a scegliere e a leggere Pinocchio, mi aspetto almeno un suggerimento a lasciar fuori dalla nostra scelta qualcos'altro. Ma non me la sento di dire guai a chi ha letto qualcosa, perché vogliamo dire, di libri veramente importanti probabilmente ne escono pochi in un secolo, e quindi pretendere che quelli che sono usciti negli ultimi anni contengano il grande capolavoro sarebbe comunque una pretesa un po' strampalata. Io però credo che ci siano un paio di cose che vanno individuate. Da un lato, una certa tendenza della letteratura contemporanea a raccontare soltanto la contemporaneità, cioè raccontare la vita che noi già facciamo, come se fosse gratificante, soprattutto per i giovani, sentirsi parlare delle proprie disgrazie, della mancanza di futuro, di una certa propensione a lasciarsi andare in un mondo dove più che vivere si è vissuti. E dall'altra parte, l'altro difetto secondo me molto presente nella letteratura di questi ultimi anni, una calcare la mano sullo stile, cercando di tirare fuori da una certa pesantezza di stile, presenza di frequenti figure retoriche, grandi metafore, quello che nasconde in realtà la mancanza di contenuti. Va bene, allora proviamo a portarci dietro un po' più di leggerezza, di contenuti, un po' più di laicità e soprattutto Pinocchio. Questa era la scelta di Piero Dorfles. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Non vi ho dato prima il numero degli SMS, anche se mi sa che lo sapete meglio di me. 349-238-6666. Riccardo ci suggerisce I Promessi Sposi. Se li leggi capisci gli italiani. Vizi Virtù, tutta l'assurdità e l'incomprensibilità di noi italiani. Va bene, segniamo anche I Promessi Sposi. Noi su Facebook abbiamo un po' anticipato questa mattina, come lo facciamo sempre, il nostro argomento. Il primo voto arrivato è per Cuore, che parla di un Italia di ieri così lontana da certe derive odierne, scrive Roberta, però forse si vede che pensa che ancora valga. Voglio sentire qualche ascoltatore. 800 24 00 24. Luca da Milano, benvenuto. Sì, ciao. Qual è il libro che scegliamo? Io scelgo Due di Due di Andrea De Carlo. Beh, è un libro di una persona viva, questo è... Sì. Che, perché? Per quale motivo? Secondo me Andrea De Carlo è uno degli autori contemporanei che però ha scritto già dei classici, insomma. Cosa ci trovi di rappresentativo dell'Italia in questo libro? Insomma, è una storia attuale, insomma, è un'amicizia, è tutte le storie di contorno che ci sono, è ambientato a Milano. Insomma, mi è piaciuto molto, ecco. Parla di oggi. Va bene, io vi invito ancora a chiamarci 800 24 00 24 e a usare tutti gli altri mezzi, da Twitter a Facebook. Un altro suggerimento sul libro da salvare lo chiediamo a un giornalista che lavora all'inserto La Lettura del Corriere della Sera, l'inserto che ogni domenica parla appunto di cultura e di libri. È con noi Luca Mastrantonio, benvenuto. Buongiorno. Luca, allora, togliamoci subito il dente, so che è tosta, ma qual è l'unico libro? Guarda, Deserto dei Tartari di Dino Buzzati, senza esitazione, e non solo per aziendalismo, perché ovviamente Buzzati lo scrisse ispirato dai turni di notte al Corriere. Il romanzo di Buzzati, uscito nel 1940, è una sorta di mantra che per anni mi sono ripetuto: non bisogna aspettare che arrivino i tartari, non bisogna investire la propria vita nella promessa di gloria, nella promessa di ricompense che soprattutto, purtroppo, l'Italia di oggi e ancor più quella di domani e dopodomani non possono garantire. Quindi un romanzo di un passaggio dall'età giovanile, matura acerba, all'età adulta, in cui poi nel finale, che non rivelo, comunque uno scarto di consapevolezza di quello che si è vissuto, ma ci ricorda che non bisogna star lì ad aspettare, a fare la guardia ai bidoni vuoti di benzina che ci hanno detto invece serviranno per guerre a venire. È un diciamo romanzo, diciamolo, tutto incentrato su questa eterna attesa che è molto anche, diciamo, attuale, leggendo i giornali non di questi giorni, degli ultimi anni, cioè la nostra generazione, lo dico io e te, insomma, siamo più o meno, abbiamo più o meno la stessa, diciamo, quei 30-40enni giù di lì che da quando sono ragazzini attendono che succeda qualcosa di grande o di tremendo, che però succederà sempre il mese prossimo, dopo l'estate, con l'anno nuovo. Sì, in una clip la storia del Deserto dei Tartari è la storia di un giovane, il tenente Drogo, che arriva alla fortezza Bastiani, una ridotta ormai inutile ai fini strategici, che sta a sorvegliare appunto il Deserto dei Tartari, pensa che ci passerà solo qualche mese, poi viene irretito dalla morbida routine militare e resterà anni, resterà per tutta la vita, fino alla fine dei suoi giorni, andrà a trovare in un altrove dove scoprirà comunque un senso della sua esistenza, ma quando i tartari arriveranno lui non potrà combattere e guadagnarsi la sua fetta di gloria. Quindi sicuramente è una metafora delle promesse che tradiscono le aspettative, soprattutto dei giovani. Visto che tu prima citavi appunto i bidoni di benzina e le altre cose a cui noi facciamo la guardia da anni, nella speranza e nell'attesa, nella certezza che servano, e poi magari scopriamo che potevamo anche abbandonarli senza troppa, diciamo, senza troppa paura e senza troppi rimpianti, che cosa c'è nella letteratura italiana che secondo te forse stiamo conservando così per manierismo, per abitudine, e del quale che potremmo tranquillamente lasciare fuori dalla nostra astronave? Il culto della bella pagina per prendere un bel voto da maestrini di ormai 70-80 anni, cioè critici e scrittori di riferimento che appartengono ad epoche passate, e forse anche una certa illusione che temi importanti come precariato, le condizioni del lavoro di oggi possano nobilitare una narrazione. Ecco, siamo un po' vittime della bella pagina da un lato e del contenutismo del messaggio dall'altra. Grazie Luca, noi proponiamo ai nostri ascoltatori Il Deserto dei Tartari e grazie. Grazie a voi. Visto che, insomma, sia Mastrantonio che Dorfles ci hanno messo in guardia dalla ricerca della contemporaneità, cito l'SMS di Cristiano che sceglie Q di Wu Ming, romanzo che parla un po' di noi e di una certa società che necessita di ribellione, ma parlando di storie di centinaia di anni fa. L'Italia vista dallo spazio. Scusa, giovane. Prego. Ti devo chiedere una cosa. Sì. Un po' mi imbarazza. Non so come di. devo comprare un libro. No, no, non per me, no. È per una ragazza. Tipo? Bella, bellissima. Sai, questo è Checco Zalone che nel film Cado dalle nubi entra in biblioteca tutto timoroso e sperando che nessuno veda la cosa tremenda e vergognosa che sta per fare, cioè deve comprare un libro. Bentornati all'Italia vista dallo spazio, scegliamo un libro da lanciare in rappresentanza dell'Italia, di quello che l'Italia che è, ma soprattutto di quello che l'Italia vorrebbe essere. 800240024, Daniela da Modena, benvenuta. Ciao. Daniela, che libro scegliamo? Io scelgo Francesco Piccolo, L'Italia spensierata. Ah, è un libro nuovo anche questo, tu sei abbastanza giovane, quanti anni hai? 33. Libro contemporaneo, come mai? Perché secondo me racconta molto bene l'Italia attraverso gli italiani, nel senso che attraverso storie di fiction, probabilmente anche legate alla realtà, ci rappresenta bene, ci rappresenta un po' come se fossimo degli attori su una scena e quindi mi ci vedo molto. Non c'è quel rischio che dicevano Dorfless e Mastrantonio, cioè di inseguire troppo l'attualità? No, secondo me no, se dovessimo lanciarlo nello spazio forse potrebbe essere un buon libro. Ok, grazie Daniela. Fabrizio da Reggio Emilia, benvenuto. Ciao, sono Fabrizio, sì, da Reggio Emilia. Ecco, che libro scegli? Il libro è I Malavoglia di Verga. I Malavoglia di Verga, io voglio fare una confessione, ho letto quel libro e per anni ho pensato che i lupini fossero quelli gialli, quelli che si mangiano col sale, poi ho capito dopo 15 anni che erano i frutti di mare. Vabbè, comunque Fabrizio, perché scegli Malavoglia? Beh sì, perché è un libro che mi ha colpito molto, io sono meridionale d'origine ma vivo da una vita qui a Reggio Emilia e la particolarità è che un ex professore in pensione mi consigliò questo libro che lui non riuscì a leggere perfettamente bene perché non riusciva ad afferrare quei modi di dire in siciliano, non so se riesco a spiegarmi bene. Sì. Vabbè, però quindi forse ci dobbiamo mandare nello spazio, oltre ai Malavoglia, anche un dizionaretto di siciliano-italiano. Sì, forse sì. Va bene. Grazie Fabrizio, la tua scelta era i Malavoglia. Mattia da Firenze, pronto? Buon pomeriggio a voi. Che libro scegliamo? Scegliamo un libro utile, Il Principe di Machiavelli. Perché? Vabbè, io temo di saperlo. Perché? Perché è il manuale del politico e del dirigente italiano? Magari. Il problema è che Machiavelli ha sempre detto fare l'Italia non sarà difficile, fare gli italiani sarà quasi impossibile. Ed è in realtà quello il problema che stiamo un po' vivendo anche noi. Per cui magari troviamo un principe saggio come lui consigliava di trovare. Va bene, allora lo mandiamo nello spazio, ma ho capito, lo mandiamo anche in giro, lo facciamo anche circolare. E stavo notando che comunque far dire ai nostri ospiti, oltre alle cose da portare, le cose da buttare, far fare un monolibro, è difficilissimo. Io invece volevo invitarvi ad approfittarne. In fondo l'Italia vista dallo spazio è anche un'operazione di Feng Shui, o Feng Shui, come io ho detto per anni anche lì, perché se porti una cosa, tante altre le puoi lasciare fare, quindi approfittatene, liberatevi di certe cose, tant'è che io ho chiesto che la nostra app 9000 avesse anche un'altra nuova funzione. Inserisci in blacklist. Cioè la blacklist, cioè io vi invito a esprimere anche qualche voto contro, che non è per forza un voto di cattiveria o un voto sulla qualità. Per esempio, cioè, come c'è la motivazione a portare un libro per un certo motivo, ce ne può essere un'altra a non portarlo per un altro motivo, sempre non legato alla qualità della scrittura. Io ad esempio, per dirvi, Moccia non lo porterei, ma non perché sia scritto male, per carità, non lo porterei perché invece secondo me farebbe talmente tanto successo nello spazio che ci ritroveremmo lo spazio pieno di lucchetti nell'arco di un mese. E io questa responsabilità non me la prendo, tipo è l'alieno che telefona e fa per colpa vostra siete pieni di lucchetti, quindi diteci anche che cosa non portereste, sentitevi liberi. 800240024, abbiamo un'altra ospite, una giovane scrittrice, si chiama Francesca Bertuzzi, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Francesca, il tuo ultimo libro è La paura, uscito per Newton Compton Editore, è un thriller, che è un genere che non pratichiamo spessissimo, devo dire, forse il romanziere, quello virgolettato, il romanziere, si tiene un po' a distanza rispetto ai libri di genere, invece tu lo pratichi e intanto in che rapporti sei con la letteratura italiana? Ti sei abbeverata dei libri italiani o più a libri stranieri? No, io sono in ottimi rapporti con la nostra letteratura, amo particolarmente anche gli scrittori americani, ma questo non mi impedisce poi di approfondire anche autori italiani, anche magari al di fuori del genere, come può essere un Antonio Moresco, ecco. E che cosa portiamo, che cosa mettiamo in questa navicella? Qual è la tua scelta? Beh, io porterei la Divina Commedia. Un po' perché, come si diceva prima, racconta una carrellata di perdizioni, di peccati, ma anche di storia italiana, la nascita della nostra lingua nella forma più alta, e un po' anche perché così chi la trova ha di certo molto da leggere. Beh, quello sì, sicuramente sì, e poi tra l'altro è un libro che noi possiamo anche dire che non sia attuale, però poi c'è un famoso comico italiano che noi abbiamo sentito proprio all'inizio della trasmissione, che si aggira per l'Italia e riempie le piazze e fa impennare gli ascolti della televisione leggendo dei pezzi della Divina Commedia e diciamo, riportandoli all'attualità, quindi si vede che forse quelli siamo. È vero, e poi fra le tre scelte che ho sentito che sono state fatte, la mia inclusa è stata fatta anche quella di Pinocchio, che forse abbiamo allora molto a che fare con Benigni nella scelta degli italiani. Beh, sì, anche se devo dire forse Benigni il suo meglio l'ha dato la Divina Commedia, Pinocchio, non so se io lo ricorderei come le sue cose migliori. Senti Francesca, per rimanere nello spirito della blacklist, che cos'è che invece lasceresti fuori? Ma per rimanere in tema lascerei fuori il Bignami della Divina Commedia, che così non c'è il rischio che si cerchino scorciatoie, mentre invece è bello attraversare lo splendore di Dante. Bisogna leggerlo tutto anche se faticoso. Sì, esatto. Perché esatto. Diciamo la verità, un pochino faticoso è. Cioè adesso quando lo leggi il Bignami... L'inferno scivola via che è una meraviglia, forse Purgatorio in Paradiso può essere un po' più scosceso. Va bene, allora grazie Francesca, ricordiamo il tuo ultimo libro, La paura, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, buona giornata. Comunque compà, io non mi arrendo. Tutte le mattine mi prendo un libro da rimorchio e mi vado a appostare alla biblioteca delle lettere, ripetendomi tra me e me. Con un libro del genere appresso, ogni femmina cadrà in mio possesso. Con un libro del genere appresso ogni femmina cadrà in mio possesso, diceva il protagonista della Guerra degli Antò, un film degli anni 90 in cui appunto il ragazzo protagonista si aggirava in facoltà con un libro che, se non ricordo male, era Ballo di Famiglia di Leavitt, un libro effettivamente che si presta, perché poi insomma diciamo la verità, è anche bello far vedere che cosa leggi. Poi personalmente è una mia passione, io scruto le copertine dei libri degli altri in treno, sui mezzi pubblici. Io sono molto favorevole alla tecnologia, ma devo dire che una cosa che mi dà un pochino fastidio della diffusione degli e-reader è che per capire cosa reggono gli altri devo proprio andare dietro alle spalle, poi quelli mi fanno beh, allora che cosa vuoi. 800 24 00 24, Luigi da Parma, benvenuto. Salve, buonasera. Che cosa portiamo? Il libro che porterei io è Il partigiano Johnny di Beppe Fenoglio. È un libro che cosa rappresenta per te? Innanzitutto è un libro che oltre alla bellezza della scrittura tenuta attraverso uno stile molto innovativo, è un libro che spiega meglio di qualsiasi testo di storia, qualsiasi manuale di storia, cosa è stata la resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale. Ed è bene ricordarselo, questo è vero. Ed è bene ricordarselo anche perché da tragici anni è nata l'Italia, quindi... Sì, sì. Ti sentiamo così così, Luigi, però veramente giusto, leggiamo i libri di storia, però a volte anche dei romanzi ci aiutano a capire meglio, magari con più empatia, certe vicende che sono successe nel nostro paese. Patrizio da Bergamo, benvenuto. Sì, buona giornata a tutti. Hai un voto quattro contro via. Tu hai un voto contro. Tutto contro? Io non porterei proprio il libro di Collodi di Pinocchio. E perché? Per i motivi che ha detto il tuo ospite prima, proprio perché, voglio dire, ci vuole un po' di spiritualità e un po' di senso religioso in questa vita, che è quello che ci aiuta ad andare avanti. E invece cosa portiamo? Libro allora italiano? Allora portiamo I Promessi Sposi delle Manzoni, proprio perché è un gran romanzo di lui italiano e proprio perché ci spiega che qualcuno ci salva la vita. Speriamo che ce la salvi, ecco. Che la provvidenza arrivi. Grazie, forse facciamo in tempo ad avere un altro ascoltatore. Giuseppe da Crema, benvenuto. Ciao. Che cosa? Niente, volevo... Io non sono un elettore di destra e sinistra, comunque il testo che volevo mandare io nello spazio è Silvio Berlusconi spiegato i poster di Beppe Severgnini. Va bene, poi mandiamo... Perché purtroppo noi siamo fatti così. Va bene. Muratori con i muratori, sono muratore con i muratori, idraulico con gli idraulici, siamo così noi italiani. Va bene, grazie per questo voto, anche se io sinceramente non so se questo povero alieno lo invadiamo subito con questa con la questione Berlusconi. Volevo andare in chiusura leggendo un po' di SMS, qualcuno fa dei suggerimenti, sembra un po' off topic, che, tipo la Bibbia, che è sicuramente un grande libro, ma non l'abbiamo scritto noi, quindi sinceramente mandare la Bibbia come simbolo dell'Italia magari ci sta, però sembrerebbe anche prendersi dei meriti che non abbiamo. Stefano suggerisce Elianto di Stefano Benni, comunque Pinocchio ha dei sostenitori. Angelo da Facebook dice Un marziano a Roma di Flaiano, perché ci sono tutti i vizi dell'Italia di ieri e di oggi. Enrico suggerisce un romanzo sul piacere di leggere, che è Se una notte d'inverno un viaggiatore di Calvino. Insomma, ci sono i suggerimenti, voi potete continuare a darli tramite Facebook nella nostra pagina L'Italia vista dallo spazio, su Twitter con l'hashtag cancelletto dallo spazio e scrivendoci. Io ringrazio Alessandro Chiappini che si è occupato della parte tecnica, Antonella Migliaccio per la redazione, da Achille Corea grazie a tutti voi, torniamo domani. Posto numero 6, in attesa di assegnazione, inviate messaggi e preferenze a Italia vista dallo spazio @radio24.it.